tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, derby bellissimo, uno dei migliori degli ultimi anni, poi si può discutere e come sul verdetto, ma sulla qualità dello spettacolo e sulla quantità di emozioni direi proprio di no. Un pomeriggio, questa era la serata, il pomeriggio era stato funestato da questo tragico incidente di Genova, si è parlato di fatalità, sempre tragica fatalità, no? È l'etichetta di questi momenti, ma il clima in cui è maturata questa presunta tragica fatalità è ancora una volta quella degli eccessi, delle intemperanze, delle violenze che fanno seguito alla mancata accettazione di un verdetto. E devo dire che, anche se è spiacevole dirlo, non può non esserci un nesso tra la reazione violenta che hanno avuto i giocatori in campo, i giocatori del Genoa alla fine, al fischio finale della partita, che si è propagato, si è trasmesso all'intero stadio, anche in tribuna d'onore, onore poi si fa per dire, no? Viste le intemperanze a cui si sono lasciati andare persone che, insomma, da cui ci si attenderebbero comportamenti diversi, e poi fuori dal campo con l'assalto al pullman della Fiorentina, è ovvio che tutto questo poi genera tensione, genera imprevisti, genera mancanza di controllo, genera panico. E poi succedono queste cose. Il Genoa sta giocando un grande campionato dopo tanti anni di buio piuttosto che di scarsa luce, sta giocando anche un bel calcio, anzi un signor calcio nelle fasi migliori, e francamente si fa fatica a capire come questo, in una stagione così felice, possa essere il modo di reagire a un risultato sfavorevole, peraltro maturato in maniera amara ma assolutamente normale. E questo secondo me significa che, se c'è l'incapacità di godersi anche di questi momenti, il nostro calcio è ancora profondamente, profondamente malato. C'è un episodio assolutamente meno, per fortuna molto meno, anzi non grave, un episodio per addirittura comico nel suo sviluppo, ma che spiega, secondo me si collega per questo clima tribale che continua a infestare i nostri stadi. E mi riferisco all'episodio di sabato all'Olimpico, quando durante Lazio-Torino, ad un certo punto, un tiro da lontano di Kolarov, che è forse il calciatore che tira più forte nell'intero campionato, ha preso in pieno sulla guancia, tra guancia e orecchio, l'arbitro Saccani, e l'ha steso al suolo con un colpo da KO autentico. Bene, cioè, anzi malissimo. Mentre l'arbitro era a terra, si sono sentiti cori, fischi e cose di un assolutamente disgustose da parte del pubblico nei confronti di quest'arbitro, forse perché si era trovato in traiettoria su un tiro di Kolarov che poteva anche finire in porta, anzi probabilmente ci era davvero destinato. Insomma, in genere questo tipo di incidenti suscitano ilarità, no? E già questo non è bellissimo, ma è istintivo che quando si vede uno vittima di un episodio del genere, insomma, forse il primo istinto è quello della risata, ma da lì a inveire e a intonare cori di ogni genere contro l'arbitro, che poi sono proseguiti fino a fine partita, veramente da una sensazione, non dico definitiva, ma molto significativa di come siamo ridotti. A Bologna stamattina si sono svolti nella cattedrale di San Pietro i funerali di Bulgarelli, che come sapete era scomparso giovedì sera a 68 anni. La chiesa era gremita, la bara è stata portata a spalla da alcuni dei giocatori del Bologna di oggi, mentre all'interno della chiesa c'erano praticamente tutti i compagni di squadra di Bulgarelli del grande Bologna degli anni 60, in particolare del 64, quando la squadra allenata allora da Fulvio Bernardini vinse il suo ultimo titolo, e quindi c'erano Nielsen, Perani, Fogli, Janic, Pascutti, e poi c'erano rappresentanti, autorità del mondo sportivo e del mondo politico. Arriviamo al primo capitolo vocale di giornata, in attesa dei vostri interventi in diretta come sempre all'800 24 00 24, e prendiamo alcuni frammenti del dopo partita di ieri sera. Comincerei da quello di Mourinho lungo sul campionato. Mancano 33 punti, 33 punti sono tanti, sono 11 vittorie, manca tanto. Ovviamente penso che in questo momento sì, si può dire che se non vinciamo lo scudetto è perché lo regaliamo, in questo momento sì, già lo possiamo dire, perché il destino è nelle nostre mani, no? Sono 33 punti che mancano, però ovviamente è difficile pensare che il Milan e la Juve vincono tutte le partite, e per questo sicuramente non mancano 33, mancano 20 qualcosa. Manca tanto, però oggi è stato molto importante per noi questa vittoria, perché era una grande possibilità di lasciare il Milan e anche la Juve, è una differenza già un po', chissà, psicologicamente un po' difficile per loro. Sono partite veramente speciali, penso che oggi la squadra ha dimostrato capacità, qualità contro un grandissimo avversario. Nel momento difficile ha saputo soffrire e ha saputo finire la partita con i tre punti. Questo era il primo dei frammenti di Mourinho che abbiamo a disposizione. Alterniamoli, sentiamo Ancelotti come ha commentato questa sconfitta. È stata una partita che sicuramente abbiamo iniziato discretamente, abbiamo sofferto molto la fisicità dei due attaccanti dell'Inter, le palle lunghe, ma questo lo sapevamo, e per il resto la squadra ha giocato un buon calcio, comandando per gran parte. Dopo è stato un periodo nel secondo tempo dove abbiamo rischiato molto di andare sotto anche 3-0, poi il finale è stato tutto nostro e avremmo meritato anche il pareggio. Sostanzialmente è stato un ottimo Milan con ottime trame anche nel primo tempo. Abbiamo sofferto molto i due attaccanti dell'Inter, quello sì, soprattutto le palle lunghe. Sentiamo ancora Ancelotti a proposito del gol di Adriano, perché tanto è inutile girarci intorno, tutte le discussioni, non tutte per la verità, ma insomma buona parte delle discussioni dell'indomani ruotano intorno a questo episodio. Il colpo di testa non entrava in porta, il colpo di testa andava molto laterale, forse arrivava nella zona di Calazzo, la deviazione di mano è stata determinante, adesso non so volontaria fino a che punto, ma col colpo di testa sicuramente la palla non sarebbe entrata, si vede molto meglio dalla camera alta. Questo è un episodio abbastanza chiaro, comunque non è che è un episodio complicato, che il giocatore salta, il giocatore è libero di saltare, quindi non è, credo che sia difficilissimo da vedere. Io credo sempre nella buona fede delle persone, per questo credo anche nella buona fede di Adriano. L'ho detto stamattina Buffon, portiere della Juventus, che ha aggiunto: quel colpo di mano rivisto più volte in TV mi è sembrato assolutamente involontario. Episodi così fanno parte dell'imprevedibilità del calcio. La stessa opinione è quella di Demetrio Albertini, che a margine di una conferenza stampa di presentazione per la vendita dei biglietti di finale Champions League a Roma ha dichiarato: lo reputo un gesto involontario, quindi la rete era da convalidare. È vero però che qualche domenica prima al Milan era stato annullato un gol molto simile di Seedorf, secondo me non era affatto molto simile. Questo dimostra, ha concluso Albertini, come è sempre difficile fare l'arbitro e uniformare le decisioni da partita a partita. E poi ci sono altre opinioni che un po' alla volta registreremo, ci sono anche i vostri primi interventi. Sentirei Matteo da Perugia, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Salve, innanzitutto sono d'accordo sul rottamare la Spider-Cam, come lei ha scritto. Ah ecco, quello è un capitolo, la ringrazio di aver introdotto lei, un capitolo che avevo affacciato da ieri, e sto parlando di blog e di altre cose, invece adesso mi scusi, le rubo solo 10 secondi, perché non tutti capirebbero di che cosa si sta parlando. Ieri sera Sky, in occasione del derby, ha varato una nuova trovata tecnologica che mi pare sia battezzato Spider-Cam. È una cosa che tecnologicamente non sono in grado di spiegarvi, e domani chiederò aiuto a chi è più competente di me per spiegarla tecnicamente. Praticamente in che cosa consiste? Consiste nel cambiare completamente l'inquadratura l'inquadratura e la prospettiva del campo di gioco. Ieri sera è stata usata in maniera, secondo me, demenziale, per cui già non era facile seguire un derby molto emozionante, molto pieno di cambi di gioco, di ribaltamenti continui. Con quella idiozia di telecamera nuova è risultato, dal punto di vista mio, assolutamente impossibile. Mi scusi Matteo e dica. No, assolutamente. Tra l'altro io qualche volta ho visto le partite su Sky, ma sono abbonato a Mediaset Premium, e quindi dà fastidio perché ogni tanto compare in mezzo alla normale inquadratura. Quindi c'è questo attrezzo che gira per il campo. Ecco. Volevo dire una cosa, io credo assolutamente che per gli arbitri sia molto difficile vedere, no, e valutare in pochi secondi, però non crede anche che la questione discrezionalità crei dei problemi? Cioè, se si decidesse di punire tutti i falli di mano, cioè quando si colpisce con la mano è comunque fallo, non sarebbe, è vero, a volte questo può chiaramente andare a scapito del difensore o di chi difende, però si sa che tocca a tutti, una volta attacco io, una volta attacchi te. Non crede però che lasciare la discrezionalità, altrimenti vediamo il gol di Seedorf annullato, quello di Vergassola invece a Genova col Siena, regolare, e quello di ieri probabilmente, ecco, Tetti non l'ha visto, però tante volte si cercano delle interpretazioni un po'... Sì, ma questo... Questo è certamente vero, Matteo, ed è anche vero che poi tutti noi, ma mi ci metto anch'io, ma se volete mi ci metto per primo, tutti noi poi siamo ormai abituati da anni, da decenni, ad andare poi alla fine a cercare il pelo nell'uovo, anche in partite in cui questa ricerca è davvero gratuita. Nel caso di ieri sera mi sembra un po' meno gratuita del solito, insomma, perché avete sentito i pareri di Buffon, di Albertini, ce ne sono altri a favore dell'involontarietà del gesto di Adriano, così come ce ne sono invece di segno opposto. Io sinceramente faccio un po' fatica a pensare che possa essere valido un gol che comunque viene segnato col braccio, con la deviazione determinante di un col contributo determinante di un movimento del braccio, perché sennò il pallone non sarebbe entrato mai. Ma sono per l'appunto opinioni. Omar da Bologna interviene sulla Spydecker e dice: grande derby, è vero, ma la ricerca da parte di Sky di immagine a effetto con riprese volanti e da angoli improbabili lo ha un po' rovinato. È verissimo, io non per carità, nessuno vuole fermare il progresso, ma magari un uso molto più cauto di una telecamera che potrebbe essere preziosa per qualche inquadratura, perché per esempio quando si è posizionata, ed è successo in 3-4 casi, alle spalle di chi sta per battere un calcio di punizione, beh, ti dà effettivamente la sensazione, la dimensione precisa, no, della difficoltà del colpitore che si trova davanti a questa barriera, vede la porta così lontana, eccetera, eccetera. Ma può essere la curiosità di, non dico una frazione di secondo, ma quasi. Non certamente quel ribaltamento continuo di immagini per cui veramente... È una serata da emicrania. Da Vicenza ha chiamato Sergio, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Cerco di essere il più breve possibile. Sì. Ieri sera sono stato a vedere il derby, peraltro molto emozionante. Avevo un biglietto per il primo anello, l'anello dietro la porta dove ha attaccato l'Inter del primo tempo. Per essere chiari, sotto la curva del Milan, dei tifosi del Milan. Non so se qualche giornale ne ha parlato, perché non ho avuto la possibilità ancora di leggerli. Nei primi minuti del primo tempo sono scesi dei tifosi del Milan e hanno avuto una colluttazione, si parla di una quindicina di persone contro un'altra quindicina, appunto vicino a me, quindi nel primo anello sotto la curva del Milan, perché si era tirato giù uno striscione. Io ho tanti anni che vado allo stadio e per entrare c'è il primo controllo, documento e biglietto abbonamento all'esterno del tornello, poi c'è il tornello, dopodiché c'è un altro controllo che è all'entrata del settore in cui poi si va a sedersi. Non è possibile per me prendere un biglietto per un settore, dopodiché spostarmi a partita cominciata nel resto dello stadio. Com'è possibile che 15 persone, secondo lei, 15 o 20 o forse anche solo una, possa indisturbatamente recarsi sotto un altro, non dovrebbe, sotto un altro settore? Non ho idea, Sergio, non ho idea, perché sono ormai troppi anni che non frequento gli stadi proprio per questi motivi che sta raccontando lei, per i motivi di Genova, per questo clima incivile che si respira comunque, per l'episodio che ho raccontato di dell'Olimpico, anche se quello è stato incruento, ma sinceramente non è più forte di me, per cui sto a casa mia, cerco di documentarmi più che posso, di vedere più partite che posso, proprio per, appunto, per essere il più documentato possibile, e spero che Sky, di cui mi servo, non rottami questa Spydercam al più presto possibile, perché in genere soltanto confusione. Nesta verrà operato domani alla schiena, lo ha comunicato il Milan sul suo sito ufficiale. L'operazione verrà effettuata presso la clinica La Madonnina di Milano, con un'equipe medica coordinata dal professor Maurizio Fornari. È una decisione, è un passo che sia Nesta che il Milan hanno cercato di evitare in tutti i modi. E passando dei mesi a cercare di evitare questo intervento chirurgico, che è un intervento rischioso per la prosecuzione della carriera, ma di fronte all'ennesima ricaduta, questo è l'estremo rimedio da tentare per vedere di averla vinta sull'estremo male che sta continuando a impedire a Nesta di giocare. Certamente, vedendo ieri sera la prestazione di Calazze, l'idea che Nesta sia un lungo degente ormai per la difesa del Milan, qualcosa non può non significare. Gianni ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buongiorno a lei, stavo ascoltando lì la storia della Spider Car, l'ho vista anch'io però in Mediaset, solo che a me è capitata ancora peggio, io sono un tifoso milanista e purtroppo chissà nelle opzioni dell'audio mi è capitato di ascoltare continuamente l'audio alla la telecronaca del tifoso interista, una roba demenziale, una roba proprio che mi ha, oltre alla sconfitta, mi ha fatto impazzire. Lo credo Gianni, non creda che la telecronaca del tifoso milanista sarebbe stata meglio se per quello, però capisco il suo problema particolare. Dica. Cimini è uno che rompe parecchio, comunque fa niente. Io volevo tornare sulla situazione arbitrale italiana e in particolar modo Rossetti. Guardi, io ho fatto l'arbitro mezzo cane per 30 anni perché ho soltanto arbitrato in provincia, sa, in quei campionucciolo lì che senza pretese, però quando si trovavano d'estate quei tornei dove venivano i vecchi marpioni della Serie A, Serie B, allora c'era da stare lì con la testa. Comunque io l'ho sempre ammirato Rossetti quando ha fatto la sua esordio in Serie A, un ragazzo che era sempre presente, correva, era una persona veramente eccezionale, come ammiravo che la sua corsa. Gianni, poi, stringiamo un pochino perché c'è un sacco di gente che è in attesa. Sì, sì. Arriviamo Rossetti è andato a fare l'internazionale, è diventato il migliore arbitro internazionale, dicono i media, però per me in Italia sta snobbando il campionato italiano. Ieri sera un arbitro di mezza tacca avrebbe arbitrato meglio di Rossetti. Cosa dice lei? Dico che ha perfettamente ragione Gianni, sono d'accordo con lei, poi non so se la ragione sia perché sta snobbando o non sta snobbando. Fatto sta ed è che Rossetti ormai ha scalato le classifiche del gradimento e delle valutazioni comunque da parte di FIFA e UEFA, è l'arbitro italiano per eccellenza in questo momento, in campo internazionale se la cava sempre in maniera molto molto brillante, in campionato meno, tant'è vero che Collina fino a ieri sera non l'aveva ancora designato in questa stagione per una partita di cartello. Aveva ragione Collina, a parer mio, così come secondo me ha ragione lei. La Spider Car ha fatto sembrare il derby giocato alla PlayStation, perfetto, e quella io mi intendo poco di PlayStation sinceramente, ma da quel pochissimo che ne so quello era l'effetto, e quindi appunto un gioco divertente, diciamo che forse se è un progetto è la trasformazione da un gioco reale sempre più verso un gioco virtuale. Speriamo che non sia quello il progetto, che si tratti solo di un incidente di percorso o di un abuso fatto di una telecamera che, ripeto, potrebbe anche servire in determinate inquadrature purché non usato in maniera massiva come ieri a rischio di emicranie ininterrotte. Marco Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Sono d'accordo con lei che il derby è stato molto bello. Molto. Io sono interista e mi sono divertito, però devo dire che ho anche sofferto perché, lasciando stare gli episodi, Adriano o il rigore su Inzaghi o l'espulsione di Ambrosini, si può benissimo dire, secondo me, in base agli episodi, se non fosse stato per i portieri o per qualche errore sotto porta, che potrebbe essere finito 4-0 per l'Inter o anche 3-2 per il Milan. Però la mia domanda che volevo farle è questa: secondo lei a questo punto questi 11 punti di differenza ci sono? Cioè ce li meritiamo noi dell'Inter? Grazie, rimango in ascolto. Non saprei, sinceramente non saprei. 11 mi sembrano tanti, 11-9 mi sembrano tanti, poi sa, meritati, non meritati. Si può discutere. Fino alla settimana scorsa c'era una congiura, no, nei confronti dell'Inter dichiarata denunciata dal suo allenatore, ci ha provato anche ieri sera da quel poco che ho sentito, perché mi pare che di tutti gli episodi discussi mi pare che l'unico che l'ha colpito, anzi tra poco lo sentiamo Mourinho, sia la mancata espulsione di Ambrosini, altro non gli è capitato di vedere, e quindi come si fa a dire queste cose. Moratti è sicuro che la partita l'avrebbero vinta lo stesso, perché Sto leggendo un'agenzia, è una svista che può capitare. Dunque, l'aiuto del braccio per Adriano è stata una semplice svista, quindi che può capitare e non certo un favore. Così Moratti ha commentato il gol di Adriano ed è curioso, no? Che tutto sommato, che è curioso ed è molto sportivo che Albertini e Buffon, e cioè un ex milanista storico e il portiere della Juventus rivale, dicano, depenalizzino il gesto di Adriano. Moratti invece, mi pare di capire da questa frase, che ammette il colpo di braccio, ma poi aggiunge, avremmo vinto comunque, poteva finire con una vittoria più netta. E ha aggiunto ancora: mi sembra che fino alla scorsa settimana eravamo noi a trovare episodi a noi sfavorevoli. Beh, Mourinho in particolare, ma evidentemente appoggiato con l'avallo della società. Da Genova ha chiamato Stefano, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare non del derby, un attimino degli episodi di Genova per fare, sì, un attimino di chiarezza. Allora, sì, ieri alla fine della partita c'è stata questa contestazione nei confronti dell'arbitro, non della squadra fiorentina, perché dal punto di vista di noi dei genovani aveva arbitrato in maniera unilaterale, cioè poi gli episodi hanno dato ragione a lui, però c'era un atteggiamento. Ma pensa, cominciamo a fare questo piccolo distinguo però. No, le spiego una cosa, però è difficile sugli episodi dare un giudizio dagli spalti al campo, no? Perché il rigore o il fuorigioco è difficile vederlo dal campo, lo vedi facilmente alla televisione, perché hai una sensazione che può essere sbagliata. E quindi nel dubbio è più facile scagliarsi subito sull'arbitro, a cominciare dai giocatori, perché comunque se il Genoa ha soltanto pareggiato, la colpa è dell'arbitro, no? È giusto. Questo. Poi uno arriva a casa, al massimo dice, toh, quel Pirla invece non le aveva proprio sbagliate così tutte, però intanto nel frattempo gli abbiamo fatto un mazzo così. E questa è la filosofia, Stefano? Posso parlare? Dica. No, sto cercando di tradurre. No, certamente. Poi le posso assicurare che comunque questo non cambia il mio giudizio sull'arbitraggio di Rizzoli, che non è stato, a mio parere, uniforme nel giudizio fra il Genoa e la Fiorentina. Cioè, perché se 25.000, 26.000 persone fischiano alla fine della partita, può essere che qualche ragione ce la possano anche avere. Poi le ripeto, nell'episodio ha ragione Rizzoli, poi non è questo che io voglio dire che nell'episodio proprio dell'incidente, purtroppo, che poi bisogna fare chiarezza, fuori ci sono state 300 o 400 persone, è andato fuori il presidente Preziosi, che tante volte abbiamo dovuto criticare tutti, è riuscito ad andare a casa 300, ne sono rimasti 100, perché quando è uscito il pullman della Fiorentina c'erano fuori 100 persone, di cui quando è uscito il pullman, che sarebbe bastato a mio parere temporeggiare 20-25 minuti e se ne sarebbero andati anche quei 100, 10 scalmanati e senza dubbio inqualificabili persone ha dato 4 calci sull'affare, e il fatto ha voluto che poveraccio quest'uomo ci finisse sotto, ecco. Non c'è nessuna responsabilità, a mio parere, da quello che posso pensare dell'autista, che poveraccio era lì a fare il suo lavoro. Su questo penso che siamo d'accordo tutti, anche se poi toccherà a una, cioè sta già toccando, no, agli inquirenti stabilire delle responsabilità eventuali dell'autista, le escluderei, sono d'accordo a escluderle anch'io. Mi sembra che però sia una ricostruzione un po' minimalista. Io credo che, ripeto, l'atteggiamento dei giocatori in campo che hanno circondato l'arbitro in quella maniera, il modo in cui i 25-26.000, quello che lei dice, sono esplosi, hanno trasmesso ulteriore eccitazione alle menti deboli, no? E malate, perché non mi dirà che andare a prendere a calci il pullman della squadra ospite che ha pareggiato che ha avuto l'unico torto di pareggiare al 48esimo, non mi dirà che è un bel modo di finire la domenica, no? Quindi se la smettiamo di, facendo naturalmente i migliori auguri di guarigione immediata a questo sventurato, ma se la smettessimo di depenalizzare questi comportamenti e di penalizzare soltanto quelli arbitrali, salvo poi, come lei ha detto, riscattarlo rivedendo quello che è successo, beh, insomma, saremmo sempre ancora in ritardo, no? Se anche facessimo tutto questo, saremmo sempre ancora in ritardo rispetto alla civiltà. Da Modena, Giulio, buongiorno. Salve Garanzini, io mi rifaccio al discorso proprio fatto poc'anzi dall'ascoltatore riguardo al pullman. Io quello che riesco faticosamente a tollerare è il collegamento arbitraggio-incidente. Ci sarebbe proprio da creare una spaccatura tra queste cose, mi spiego. È proprio l'approccio in cui noi affrontiamo, cioè i tifosi affrontano, o presunti tali, le partite. Cioè l'idea che comunque, mal che vada, l'arbitro può essere contestabile nella maniera più feroce possibile. Certo. Siccome l'arbitro scappa via perché riesce a uscire, allora a quel punto prendiamo con gli altri, ma si capisce. Qualche diciamo barbarie dobbiamo farla. E mi perdoni, questo intervento lo faccio, me ne assumo responsabilità, ma in senso lato, non in senso umano. Io ho una gran commiserazione umana la salute, per l'amor di Dio. Però per chi guadagna la vita si ricerca così, non lo so, è un argomento un po' delicato, lo capisco. Sì, però, questo è molto delicato, e poi le dirò che tanto non ci porta da nessuna parte, no? Quindi sono riflessioni che poi ciascuno è libero di fare, se non le fa forse è meglio, ma insomma... Non, all'istinto si può anche non comandare, all'istinto dei ragionamenti propri e delle proprie riflessioni. E ripeto, quello che mi fa molto specie, ma è un eufemismo, è che in una stagione così felice, dopo tempo immemorabile, i genoani la vivano invece in questa maniera così tribale. Questa secondo me è una cosa abbastanza inammissibile, e sarebbe ed è una delle spiegazioni per cui ed è una delle ragioni per cui si fa fatica a capire tutto questo, fermo restando la mancanza di senso delle proporzioni, perché ieri c'era, cioè, a Genova ho sentito, ho letto e cose, sì, forse Rizzoli, la linea dell'arbitraggio di Rizzoli, poi c'era la punizione finale, che invece la punizione finale c'era, poi dalla punizione finale quanto è passato, poi c'erano 3 secondi in più di recupero in meno, cioè c'era una serie di arrampicate sugli specchi, non li dico. Se la Fiorentina avesse segnato un gol con la mano, le avessero negato un rigore, cioè se il Genoa avesse subito un gol segnato con la mano, gli avessero negato un rigore e mezzo o forse due, come è successo ieri sera a un'altra squadra, allora cosa succedeva? A Rizzoli prima e al pullman della Fiorentina poi. Ma per favore, capisco la sua palese amarezza nel vedere l'Inter con un cospicuo vantaggio, ma le sviste arbitrali di ieri sera sono niente se rapportate ai torti che abbiamo subito, scrive Paolo, tifoso nerazzurro e probabilmente umorista. Valentino ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, ringrazio. Secondo me quello che lei ha detto, che il calcio è malato, ha ragione, perché non si può andare a vedere una partita, poi dopo succedono quelle cose lì. Adesso con il fatto della rete segnata da Adriano col braccio, le televisioni andranno avanti a marciare chissà quanto tempo. Quelle squadre che giocheranno contro l'Inter magari avranno dei problemi dopo. Comunque ha ragione lei, il calcio è malato. Il calcio è profondamente malato, Valentino, non lo dico con grande piacere, anzi tutt'altro, non credo che lei lo riconosca con piacere a sua volta, ma credo che sia una diagnosi nemmeno poi così impossibile. Ma è malato anche nei comportamenti. Io ieri sera ho visto giocare, per esempio, ho visto giocare Ronaldinho, sul conto del quale mi ero espresso in maniera molto critica quando è arrivato, perché lo seguivo a Barcellona e vedevo una parabola discendente che secondo me era abbastanza irreversibile. Ora, non mi pare che Ronaldinho abbia fatto svoltare, abbia cambiato in positivo la stagione del Milan, però devo dire sinceramente che non l'avrei più ritenuto capace di una partita come quella di ieri sera, in cui, sia pure con una lunga pausa all'inizio del secondo tempo, credo abbia messo 6, 7, forse anche 8, 10 palloni, uno più strepitoso dell'altro, sempre negli spazi, sempre sul passo giusto, sempre bastava che uno gli dettasse il passaggio. Quello iniziale di esterno destro che ha messo a Pato nel primo tempo, una cosa da applausi a scena aperta, e poi quello sul gol dell'1-2, eccetera eccetera, con un comportamento quindi da campione vero, no? da vero artista del pallone. Altra faccia della medaglia, ma come permettono a Inzaghi di continuare a protestare a quella maniera, di insultare Guardalini a quella maniera, di sfotterlo in quel modo in continuazione, quando Guardalini ha il solo torto di segnalare dei fuorigiochi che ci sono, perché c'erano tutti? No, io non riesco a capire, anziché invocare un secondo cartellino per Ambrosini, che poteva starci o non starci, ma che comunque veniva un minuto dopo un episodio certamente contestabile secondo me nell'area dell'Inter, ma perché non si caccia fuori questa gente qua che ha di questi comportamenti antisportivi ed eccita certamente gli animi, visto che abbiamo fatto un discorso prima che gli animi sono già fin troppo eccitati perché il calcio è malato. Beh, insomma, gli Inzaghi al pallone non fanno bene, su questo direi che non ci sono tanti dubbi. Da Roma ha chiamato Alessandro. Buon pomeriggio. Dica. Mi approfitto per fare i complimenti per lei, per la sua pacatezza, competenza e serietà. come sa, io chiamo da Roma, dove purtroppo trasmissioni radiofoniche, gli aggettivi che ho definito sono non molto sono rari, particolarmente perché... pacati e nemmeno competenti, direi. Assolutamente, gestiti da ultra. Diciamo questa, approfitto per chiedere di fare una campagna, solo lei la può fare perché è troppo serio, contro la moviola in campo. Io sono un ex arbitro e capisco che tanti errori, perché sono tanti gli errori, lo dico io che sono interista, ieri l'arbitro ha sbagliato a dare rigore il gol a Adriano, ha sbagliato a non dare rigore al Milan, ha sbagliato per a non espellere Ambrosini. Gli arbitri sbagliano, abbiamo sbagliato, sbagliamo perché siamo troppo sotto pressione. Solo in Italia avvengono queste cose. Leggere un arbitro di Serie A, leggere lunedì mattina i quotidiani è veramente una tragedia. Dico io, la moviola cosa poteva risolvere in campo ieri? Stabilire, come ha fatto Sky, se Adriano aveva volontariamente o involontariamente deviato il braccio? No, l'arbitro deve decidere un decimo di secondo e può sbagliare. Certo. Ovviamente sbaglia tantissimo perché la pressione in Italia e in nessun altro paese del mondo è così forte. Sono d'accordo con lei, Alessandro. Io credo che l'arbitro... credo che sia tempo, insomma, di dar corso a questa riforma che i governi europei e mondiali del calcio stanno pensando per l'appunto già da qualche tempo, sono in beccata di Platini, cioè sui due giudici di area. Se ieri sera ci fosse di porta, insomma, no? Cioè qualcuno un uomo posizionato dietro la porta che aiuta l'arbitro a valutare certe situazioni in area di rigore, su quello di ieri sera non poteva sbagliare. Certamente, perché non gli sarebbe sfuggita la dinamica di quell'episodio. Quanto alla campagna contro la moviola in campo, non è una campagna in piena regola, nel senso che questa è un angolo, diciamo, per minoranze, non certamente per maggioranze oceaniche, però da tempo mi batto, mi sembra già una parola grossa, ma insomma da tempo provo a far riflettere che non solo la moviola non va introdotta in campo, ma va soprattutto espulsa dagli studi televisivi. Se poi dagli stadi riuscissimo a espellere anche, c'entra un po' meno, questa famigerata spider cam, questa new entry, credo che riusciremo a fare bingo, perché questi marchingegni qua secondo me vanno strozzati nella culla subito, prima che possano fare danni ulteriori. Ecco, qui sì che potremmo fare una battaglia al volo. Franco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno signor Garanzini. Buongiorno. Io sono pronto? Dica. Pronto. Buongiorno signor Garanzini. Sì. Senta, io sono tifoso genovano, sono sì. Totalmente d'accordo con lei per i fatti che sono successi ieri sera a Genova. E per quel che può servire vorrei chiedere, non so, scusa a tutti i tifosi per quello che è successo. Noi i giocatori genuani col comportamento di ieri stanno rovinando tutto quello che hanno fatto di bello in questo periodo. Ma Franco, sì, no, cioè è molto bello che lei dica, pensi soprattutto quello che poi ha detto. Che abbiano rovinato tutto, no, perché non si può cancellare. Non hanno fatto nulla di così grave i giocatori ieri, si sono soltanto lasciati andare a dei comportamenti che purtroppo ci sono, no? Ci sono in questo calcio così poco acculturato e così aggressivo. Credo che i calciatori del Genoa stiano in questo momento spugnando le pressioni eccessive dell'ambiente. Credo che l'ambiente ogni tanto, come ieri, risenta di cattivi atteggiamenti e di cattivi esempi da parte dei giocatori. Io faccio un po' fatica a credere che due come Thiago Motta e come Milito, che hanno confezionato quel gol di ieri assolutamente superbo. Quello è un'azione da Barcellona, io reputo in questo momento quello di Barcellona di gran lunga il miglior calcio del mondo. Il gol di ieri, quella triangolazione Motta Milito Motta, è una cosa da Barcellona, ma di quelle di alto livello. Ecco, che dei protagonisti di quel livello poi si lasciano andare alla fine sul piano nervoso così in basso, sinceramente non è, insomma, è uno stridore che se si riesce a eliminare in fretta sarebbe meglio. Deve pensarci la società, secondo me, potrebbe essere un problema. Fabrizio da Belluno, buongiorno. Sì, salve, completamente d'accordo con lei sia su Inzaghi che sul Genoa. Devo dire che Genoa e Napoli sono le squadre che ho visto giocare meglio quest'anno. Dico anche che secondo me non è l'Inter che sta vincendo il Scudetto, ma sono Juventus e Milan che lo stanno perdendo, sicuramente. E poi volevo parlare con lei riguardo al fatto che è inutile che il Milan non può non giocare con due punte, anche perché i risultati non si vedono. Ha perso 6 punti su 3 partite per 3 pareggi alla fine. E penso che sicuramente Beckham sta giocando bene, però spendere 15 milioni di euro adesso per Beckham è la classica toppa all'italiano. Il Milan ha bisogno di spendere 7 milioni di euro per due buoni giovani. E niente, sono completamente deluso dal fatto che comunque Ancelotti fa sempre fatica a fare i cambi. Cioè ieri si è visto un Inzaghi a 20 minuti dalla fine, era un miracolo, perché sennò mette dentro la gente a 5-6 minuti dalla fine. E poi non so dove sia finito Shevchenko, che comunque non so perché nessuno se lo ricorda, è uno che ha fatto 120 gol in 5 anni. Sì, però mi sembrano cifre molto basse. Anche no, Fabrizio, però io li ho visti tutti al Chelsea, perché purtroppo per lavoro vedo tutte le partite internazionali italiane e non vedo mai quelle del Milan. Purtroppo non è male, Fabrizio. Shevchenko, i gol di Shevchenko in questo momento, cioè, non hanno molto, molto senso, perché mi creda che così come sono state date tutte le chance possibili a Ronaldinho, a Beckham e magari anche qualcuno in più a Ronaldinho in certi momenti difficili, non è che non è stato fatto altrettanto per Shevchenko, che diciamo è ancora più caro al cuore della società, mettiamola così, ma non c'è stato niente da fare. Lei ricorda i vecchi gol di Shevchenko, è come ricordare quelli vecchi di Nordahl o di Altafini in questo momento. Fabrizio, grazie anche a lei. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 febbraio 1952. L'Italia guadagna la ribalta delle Olimpiadi invernali di Oslo grazie a Zeno Colò. Il 32enne sciatore toscano, già protagonista 2 anni prima ai mondiali di Aspen, vince l'oro nella discesa libera, infliggendo al secondo classificato, l'austriaco Ottmar Schneider, oltre un secondo di distacco. Per sottolineare la superiorità ostentata in gara, la stampa italiana ribattezzerà Colò il Falco di Oslo. Dopo di lui, nessun azzurro sarebbe più riuscito a conquistare l'oro olimpico nella discesa libera. Torniamo all'attualità e ci torniamo come? Ma ci torniamo per esempio ascoltando Del Neri. Perché? Ma perché la bambola che ieri l'Atalanta di Del Neri ha rifilato alla Roma con 3 gol in 7 minuti è la prosecuzione di quella rifilata a suo tempo all'Inter e di altre prodezze di questa squadra che a sua volta è risalita un bel po' in classifica. Quindi come omaggio al calcio, al grande calcio di qualità provinciale, sentirei questo commento di Gigi Del Neri. Diciamo che l'Inter ha subito il nostro momento migliore nel primo tempo, in minuti brevi, nel secondo tempo invece la Roma, però quello che le accomuna è il fatto che non hanno avuto probabilmente grandi situazioni da gol durante la partita e quindi abbiamo concesso poco o niente, e da quel punto di vista lì era importante prima non concedere e poi cercare, se trovavamo lo spiraglio, di poter anche noi dire la nostra. Mi sembra i ragazzi sono stati perfetti come contro l'Inter, direi che la partita gli assomiglia molto come attenzione, come così concessione di soluzioni da gol da parte dell'Atalanta alla Roma e da parte dell'Atalanta all'Inter. Complimenti a Del Neri e all'Atalanta, complimenti al Cagliari. Mauro ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire 2 cose in particolare. Innanzitutto faccio i complimenti per la trasmissione. Poi volevo dire, mi dispiace per il tifoso ieri di Genova, ma cos'è che ci faceva lì? Proprio non si sa. Io cosa dovrei dire essendo tifoso del Milan dopo la finale persa con la prima finale persa con il Liverpool. Poi un'altra cosa, io sono d'accordo sul discorso che comunque il calcio è malato, anche perché ogni competizione più soldi ci girano intorno, più in questo caso che il calcio si allontana dalla competizione insomma sportiva. E ho visto comunque la partita di ieri sera, il Milan non stava giocando male quando ancora era solo 0-0, dopo il gol gli ha tagliato le gambe e è andato completamente in bambola prendendo il secondo, e ce n'ha voluto, è logico, loro potevano fare anche il secondo e il terzo, però quando sei in avanti alla ricerca ricerca comunque del gol, è naturale che comunque qualcosina lasci agli avversari. E mi sembra strano il fatto che comunque Mourinho si sia lamentato quando non è la prima volta che li vedo già scendere in campo avvantaggiati, e non è la prima volta, considerando che poi il campionato dell'anno scorso l'hanno vinto. Mauro, sta andando lunga, Mauro. Io credo che nel caso di ieri sera molto abbia pesato la debolezza difensiva del Milan, i due gol dell'Inter, con tutto il rispetto per il taglio di Adriano alle spalle di Maldini, vabbè, l'età conta per tutti, ma in ogni caso, al di là del taglio di Adriano dietro, che poi ha colpito malissimo, forse perché la palla, proprio perché gira dietro Maldini, gli sparisce per un attimo dalla visuale, il traversone di Maicon è assolutamente splendido, la sponda di Ibrahimovic per Stankovic sul secondo è altrettanto bella, però mi pare che in entrambi i casi ci sia una coproduzione con i difensori milanisti. Intanto sul primo gol Ambrosini e Ankulovski, direi, si fanno tagliare fuori da un 1-2 che lancia Maicon per il cross, che mi è sembrato già discutibile. La mancata di chiusura di Ankulovski sul secondo, dove stava Calazze, e tutte queste cose. Calcoli che già dopo un quarto d'ora, ben prima di questo, Stankovic era divorato una palla gol incredibile entrando nella difesa del Milan con una facilità, grazie a un assist di Cambiasso, bellissimo, per carità, però in quei casi ai meriti di chi attacca si sommano anche i demeriti di chi difende. Gianni da Lecce, buongiorno. Salve. Dica. Senta, io su Adriano volevo dire, succede, non può succedere, no, io non credo alla volontarietà, credo solo una cosa però, lei si ricorda, essendo io di una certa età, Maradona con la mano, con l'Argentina, sì, che era ben diverso, da molto più importante che derby di Milano, senza neanche saltare, ha segnato e ne abbiamo fatto un mito, la mano sinistra di Dio, bravo perché ha eluso gli arbitri, ha eluso i segnalini, ha eluso tutti, ha vendicato l'Argentina per le Falkland e via discorrendo. Allora, vorrei dire che Adriano sarà la mano destra del diavolo, quando ha saltato gli ha schizzato la palla chiaramente sul braccio, non ce l'ha buttata lui. Poi c'è un'altra cosa, essendo lei un professionista abbastanza serio, la rispetto. Rispetto alla questione morale, mi scappa una cosa che ancora non ho sentito, magari mi è sfuggita. Il procuratore di Pordenone, che era il capo dell'inchiesta Moggi, io ho letto sul giornale che è incriminato per altri motivi. Sì, ma non era, cioè in che senso? Il tatto non era Pordenone, ma era Pinerolo, si chiama Marabotto, in che senso aveva condannato Moggi? No, è fuori, come si dice, fuori organico, perché c'ha problemi seri, perché l'hanno scoperto, che faceva delle, certo, per corruzione, ma guardi che non era, cioè, non era uno che avesse denunciato Moggi, era un sodale di Moggi da tanti anni, e sodale forse è un eufemismo per i rapporti che c'erano tra l'ex giudice Marabotto e l'ex direttore generale della Juventus, peraltro conosciuto prima ancora e frequentato molto prima ancora, quando Moggi lavorava per altre società. È un filone su cui credo che qualcuno, proprio per via delle ultime disavventure del giudice Marabotto, potrebbe innestare qualche altro sforzo di indagini, risalenti anche a parecchi, ma parecchi anni fa. Marco ha chiamato da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sì, penso che questa settimana il giudice sportivo dovrà comminare 3 giornate a qualcuno. Cioè io penso o le combina ad Adriano o le combina all'arbitro che non ha visto, perché se ha visto e ha convalidato questo gol c'è lasciarlo fermo per un po', se invece non l'ha visto ci sembrerebbe che Adriano, come Gilardino, perché il fallo è stato volontario, quello sì, è vero che gli è schizzata, ma lui poi gli ha dato la botta per farla andare dentro, perché sennò la palla si sperdeva quasi in fallo laterale, la direzione era quella. E di conseguenza io sarei per tutte, dare 3 giornate a tutte e due, perché mi sembrano, però volevo sapere lei cosa ne pensava. No, non ne penso, per me era un gol da annullare e basta, quelle Girardino che ne dicano ai, a Firenze, quella di Girardino era un altro genere di furbata. Questo era un Girardino ha molti più riflessi. Qui mi è sembrato, non so, l'elefante che gli sbatte il pallone, gli sbatte addosso e lui non ha quel riflesso immediato e quindi goffamente poi tocca cosa. Era un gol da annullare, basta, senza stare a fare paralleli o andare a pescare chissà dove all'indietro. Chiuderei con Paolo, ha chiamato da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Tanto per cominciare, sono due cose veloci. Sottoscrivo con lei l'irriverenza di Inzaghi, da milanista dico questo, quindi nel suo voler sempre arrabbiarsi ogni posizione. Ma nel voler condizionare il guardalinea, perché voglio dire, c'è una carriera che parla. Ma sostanzialmente è un brutto gesto. Ecco, bravo. Effettivamente ha dato fastidio anche a me da milanista, tra le altre cose la maggior parte della direzione era in fuorigioco, quindi, ma questo a prescindere dal fatto che lo era o meno. Io volevo capire una cosa sull'involontarietà, sulla regola applicata per l'involontarietà di un tocco di mano. Diciamo il gol di ieri di Adriano, concordo con lei da annullare pienamente, ma è una regola che viene interpretata o viene applicata? In quanto mi ricordo in una partita dove Shevchenko alzò il braccio per proteggersi su un calcio di punizione in area, toccò col gomito e il Milan subì un calcio di rigore. La mia domanda è semplice: capire in questo caso il gol è stato comunque una penalizzazione verso il Milan. Paolo, le rispondo, abbia pazienza, le rispondo comunque domani perché l'intervento è andato lungo e abbiamo esaurito il tempo. Ne avevo anche una carina su Mazzarri, l'allenatore della Sampdoria, noto per la sua sportività. Mi tengo anche questa per domani. Ci risentiamo tra 23 ore. Grazie a Filippo Ureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.